Di Franziska zu Reventlow, Il complesso del denaro, dedicato ai miei creditori. Cara Maria, da una pressante lettera di B che il consolato mi ha fatto recapitare, vedo che vi chiedete con apprensione dove io sia finita. Forse scomparendo così, senza lasciare traccia e non rispondendo più a nessuno, molte grazie in ritardo per tutte le tue lettere. Non vi sarò sembrata una vera amica, ma credimi, almeno in parte sono stata spinta da un tenero riguardo. Non aspettarti comunque che la corrispondenza che con questa lettera intendo ricominciare tratti di cose particolarmente liete. B è convinto, e voi pure in definitiva, che io sia da tempo entrata in possesso della famosa eredità e che con essa abbia preso il largo. No, non è così. Pensa che quel vecchio signore ancora non è morto. Comunque di sicuro non ne avrà per molto e questo è uno dei motivi per cui mi trovo qui. Non spaventarti, ti prego, in una clinica per malattie nervose o, diciamo meglio, in una casa di cura. La parola ha un suono un po' meno brutale. Casa di cura. Già vi vedo te e tutti gli altri scuotere il capo con aria perplessa. E in effetti io non sono malata di nervi e neppure particolarmente nervosa, ho soltanto un complesso del denaro. Spero in Dio che tu sappia che cosa vuol dire complesso nella presente accezione patologica. Più o meno questo: sentimenti, pulsioni e altre simili cose, rimosse o non vissute fino in fondo, si addensano, credo, nel subconscio e provocano dei disturbi psichici. Si tratta di un nuovo metodo per curare le malattie di nervi, che viene chiamato psicoanalisi. L'ha inventato il noto professor Freud di Vienna. Te lo dico soltanto perché tu capisca come mai i suoi seguaci si chiamano freudiani, altrimenti si potrebbe pensare che la parola alluda a qualcosa di particolarmente gioioso o magari di equivoco. E qui l'autrice gioca sull'assonanza tra freudiano, Freud e Freude, che significa gioia in tedesco, in italiano è intraducibile. Ma esistono moltissime persone che questo metodo potranno illustrartelo meglio di me e perciò ti consiglio vivamente di rivolgerti a loro. Anch'io finora non avevo la minima idea di queste faccende e ti assicuro che non me ne interesserei per nulla se non fosse che un freudiano ha scoperto in me il complesso del denaro. Ah, lo so bene che non c'è niente di più insulso di uno che racconta la storia delle proprie pene. E tutto sommato mi piacerebbe di più raccontarvi qualche storiella gioiosa, ma sono sicura che questo mio soggiorno in una clinica per malattie nervose mi fa apparire ai vostri occhi in una luce quanto mai ridicola, sicché desidero giustificarmi e raccontarti nei dettagli il cupo succedersi degli eventi. Ti prego soltanto di essere indulgente se la mia narrazione sarà un poco prolissa e talora confusa. Cara Maria, anche se lo scorso anno ci siamo viste poco, perché tu eri quasi sempre via, saprai ugualmente che già prima la mia esistenza non era altro ormai che un'unica crisi economica. Quante volte nel vostro accecamento avete ammirato il mio ottimismo e il mio disprezzo della morte, ma avevate torto, perché proprio l'ottimismo è stato la mia rovina. Io non ho mai preso abbastanza sul serio le questioni di denaro, lasciavo correre, pensando che prima o poi le cose sarebbero cambiate. In breve, per dirla nel gergo dei freudiani, ho decisamente rimosso il denaro nel subconscio e questo il denaro non l'ha sopportato. Per favore, non ritenetemi seriamente squilibrata, ma è così. Sono davvero arrivata al punto di intenderlo, il denaro, come un essere dotato di personalità con il quale si intrattiene un dichiarato e nel mio caso tormentoso rapporto. Con il rispetto e la compiacenza si può anche accattivarselo, con l'odio e il disprezzo si può renderlo innocuo, ma trattarlo con affabile indolenza è il modo di guastarsi ogni rapporto con lui. E io devo aver fatto proprio questo. Lo lasciavo andare e venire senza preoccuparmene come capitava. Ah, quel maledetto ottimismo che a voi piaceva tanto. E quando poi ho notato che il denaro cominciava a diventare sempre più ostile nei miei riguardi, allora ho provato a blandirlo. Gli sono corsa appresso, ma ormai era troppo tardi. Lui non mi ha più voluta. Insomma, La mia crisi economica ha toccato un vertice che mai avrei immaginato. Hai abitato da me quanto basta, Maria, per aver visto coi tuoi occhi come stanno le cose. L'appartamento è disdetto, ogni suppellettile appena decente, pignorata o già tolta di mezzo per sempre. Ma il campanello suona, suona di continuo, neanche si va più ad aprire. E tutto quello che arriva in casa con la posta comincia con le parole «in nome di Sua Maestà», eccetera, eccetera. Eppure continua a saltar fuori gente che vuole denaro, denaro, denaro e poi ancora denaro. Ah, l'atmosfera nella casa è come surriscaldata, innaturale e pullula di richieste inaudite. Non c'è più niente di niente. E tuttavia non si sente, non si vede, non si legge e non si viene a sapere altro se non che ciascuno rivuole il suo denaro. Qualche volta tu affermasti che in casa mia succedeva qualcosa di simile a ciò che si legge nei libri di lettura, là dove si narra di uomini devotissimi che, volendo costruire una chiesa o altre cose parimenti utili, senza avere a disposizione neanche un piccolo capitale, confidano tuttavia nell'aiuto divino con fede incrollabile. E quando ormai sono sul punto di disperarsi, ma volgono fiduciosi gli occhi al cielo, ecco che suona il campanello e un anonimo benefattore fa loro recapitare una somma incredibile. Questo capitava in passato, è vero, qualche volta mi è capitato, ma in quell'ultima crisi no, neanche a parlarne di una cosa simile. I benefattori erano tutti morti, spariti, partiti, adiratissimi o comunque introvabili. E io, per parte mia, non avevo più quella cieca fiducia in Dio e sentivo che il baratro apertosi tra lui e me, tra il denaro e me, non era più colmabile. Il denaro cominciò a vendicarsi di me e questa vendetta fu tanto più infame in quanto non solo lui mi evitava, ma proprio per il suo non esserci affatto, riempiva di sé tutti i miei pensieri, tutti i miei sentimenti, mi assorbiva completamente e non si lasciava più ricacciare nel subconscio. Ci sono momenti in cui la gente comincia a pregare. E ad un certo momento io incominciai a contare con cieco e accanito fervore. Contavo svegliandomi e addormentandomi, contavo camminando e stando ferma, contavo insieme e poi separatamente tutte le somme che mi servivano ora, che mi erano servite prima, che mi sarebbero servite. Poi calcolavo tutte le possibilità e impossibilità a disposizione o no, nel presente, nel futuro e nel passato. Ah, tutta la mia vita mi passò nuovamente davanti in ogni minimo dettaglio pecuniario. Mi rendevo conto che non avevo mai avuto abbastanza denaro e che verosimilmente non ne avrei mai avuto abbastanza, sicché si ridestarono in me tutte le voglie rimosse, tutti i sogni di lusso infranti e le innumerevoli cose che avrei potuto fare o desiderato acquistare e non avevo fatto o non avevo acquistato. Turbinavano dinanzi al mio occhio interiore, come per ammonirmi e così via, incessantemente all'infinito. Che in simili condizioni non si possa essere molto socievoli, te lo puoi certo immaginare. Sentivo inoltre che anche gli amici non provavano più un particolare piacere a frequentarmi. Mi trovavano noiosa, tormentata e tremavano al pensiero che gli chiedessi del denaro. E in questo avevano perfettamente ragione, perché quando mi trovavo insieme a qualcuno, non facevo altro che valutarlo in cuor mio e aspettare il momento adatto per adescarlo in un prestito, in un losco affare oppure in una firma. Non ho nessuna voglia di scendere troppo nei particolari per amor tuo, ma anche per me stessa, perché se comincio a parlare più in dettaglio di queste cose, ancora oggi mi tornano i miei attacchi di conti. E finalmente, un giorno, sarà stato all'inizio, alla metà di maggio. Uscii dalla città di buon mattino nella speranza di svagarmi, ma non servì a nulla. Non appena in strada mi venne incontro la vettura di un albergo. Lessi stordita la scritta «Alle 4 stagioni» e meccanicamente mi chiesi, mentre camminavo per i prati, che stagione fosse mai quella. Tutto era in fiore, il sole splendeva, le allodole cantavano e nello stagno le rane gracidavano, verosimilmente di piacere. Io le invidiai e di nuovo i miei pensieri cominciarono a ruotare intorno a quell'unico punto, vorticosi, inarrestabili. Si sarà anche primavera, ma a me che mi importa? Non esistono le stagioni né il sole che splende nei prati in fiore. Non esiste il canto delle allodole, neanche la rana. Esiste soltanto il denaro. Tutte queste cose e creature fingono di essere felici, ma la felicità non esiste. E neanche la tragedia, perché con il denaro si può sopportare qualsiasi tragedia, e senza il denaro anche la felicità se ne va al diavolo, o comunque non serve a niente. Così depennavo ogni cosa e al suo posto mettevo il denaro. Ammetto che in questa operazione c'era un che di liberatorio, fino a quando mi accorgevo a un tratto, con un tuffo al cuore, che di denaro appunto non ne avevo affatto. E allora tutto ricominciava da capo. Beh, siccome ho pietà di te, Maria, preferisco non seguitare questa descrizione. Proprio quella stessa mattina ho poi incontrato uno specialista in malattie nervose che conoscevo di sfuggita, un cosiddetto freudiano. Mi sarebbe piaciuto conversare tranquillamente con lui, del più e del meno, ma non riuscivo a districarmi da quei miei ragionamenti. Lui si fece attento, si interessò a quel che dicevo. Mi pose ogni sorta di domande, poi si fermò in mezzo al sentiero, mi guardò entusiasta e stabilì che soffrivo di un grave complesso del denaro, guaribile soltanto mediante un trattamento psicoanalitico del quale avrebbe gradito incaricarsi personalmente. Nel seguito del discorso mi propose di recarmi per un certo periodo nella clinica di un amico di suo padre, il professor X. Lui stesso aveva intenzione di passare le vacanze in quel luogo e mi avrebbe quindi raggiunta in seguito. Al professor X, per l'amor di Dio, non avrei dovuto far parola del progettato trattamento, essendo costui un acerrimo avversario di Freud e del freudismo. Avrei potuto trovare la scusa di un'idea fissa e simulare qualche altro disturbo. All'inizio non sapevo che fare e il pensiero di essere affetta da qualcosa di patologico mi spaventò non poco. In realtà io stessa avevo probabilmente intuito di non essere del tutto a posto e comunque l'idea di liberarmi da un simile stato mi allettava molto, essendo chiaro ormai che quel terribile contare e il pensiero incessante del denaro mi avrebbero in breve tempo del tutto prostrata. Se le cose continuavano così, non sarei certo stata in grado di mettere ordine seriamente nelle mie faccende. Di lì a non molto, quando seppi della grave malattia che aveva colpito l'anziano signore e da cui aspettavo l'eredità, la mia decisione fu presa, perché mettermi a contare, avendo anche a disposizione un vero capitale, sarebbe stato, Dio mi è testimone, superiore alle mie forze. Così rimisi nelle mani di Dio i miei affari, i miei creditori e tutto il resto. Poi presi il treno e arrivai in questo posto, e da allora, per il mondo e per me stessa, è come se avessi cessato di esistere. Tuttavia, persino i ricordi mi affaticano moltissimo e credo che per oggi ne abbiamo entrambe abbastanza. Un'altra volta ti dirò di più. 2. Come mi sento qui? È questo che vuoi sapere? Beh, al momento è grosso modo la situazione più stupida che mi abbia finora riservata la vita, nonostante mi sia stata piuttosto prodiga di situazioni assurde. Non ero mai stata in una casa di cura e ancora non ho ben capito come bisogna comportarsi in questo posto. Il professore mi sottopose, come ovvio, a un pressante interrogatorio e io, non sapendo cosa dirgli, mi trovai in un certo imbarazzo. Siccome la prima sera gli altri pazienti mi erano sembrati piuttosto antipatici, gli spiegai che soffrivo di una morbosa misantropia e che perciò, se qualcuno mi urtava i nervi seriamente, ero capace di reagire in una maniera a dir poco scortese. Ma lui disse allora che preferiva in tal caso tenermi in isolamento per un certo periodo. Avrei dovuto consumare i pasti da sola nella mia stanza, eccetera, eccetera. No, oh, per l'amor di Dio, questo no, non lo volevo. Stare troppo sola mi faceva diventare pazza del tutto. E va bene, egli mi avrebbe concesso volentieri la massima libertà, a patto però che io non esercitassi sugli altri un influsso disturbante. Per esempio, non dovevo manifestare vistosamente la mia avversione per la gente che mi stava intorno. No, certo, questo non l'avrei fatto di sicuro, gli risposi con grande convinzione, al che lui mi guardò stupidissimo e scosse il capo. Pausa, faticosa riflessione. Poi accusai insonnia, stati depressivi e altri disturbi inventateli per lì. Come si manifestavano le depressioni? Per caso mi capitava sovente di aver voglia di piangere senza motivo? Beh, di fronte a questa strana pretesa uscii di nuovo dal mio ruolo scoppiando a ridere di cuore, ma lui, grazie a Dio, prese la mia risata per un fatto nervoso e con gesto paterno. Mi appoggiò la mano sulla spalla dicendo che certamente dovevo aver subito dei contraccolpi psichici di notevole gravità. Mio Dio, pur senza nominare il complesso del denaro, mica potevo dirgli semplicemente: sicuro, è proprio così, ma si è trattato di contraccolpi di natura esclusivamente pecuniaria. Nel corso della mia vita ho saputo affrontare ogni sorta di conflitti con altre persone, miei personali, soltanto a quelli economici non ho saputo far fronte. Non c'è riuscito l'amore, felice o infelice che fosse, a sconvolgermi la psiche, e neanche il matrimonio e poi il divorzio. Ma loro sì che ce l'hanno fatta, loro soltanto, i creditori, i padroni di casa e i fornitori. Difficilmente il professore mi avrebbe capita fino in fondo e tutt'al più sarebbero aumentati i suoi dubbi circa la mia solvibilità. Ad un tratto poi mi sfrecciò per la mente il seguente pensiero: Dio del cielo! E se adesso per un miracolo l'uomo da cui aspetto l'eredità si rimettesse in salute e anche qui io non riuscissi a far fronte ai miei obblighi pecuniari? I pensieri del denaro, che da un paio di giorni avevo quasi dimenticato, mi ripiombarono addosso come uno stormo di corvi. Non ero più in grado di dire nulla, e questo il professore lo attribuì certamente ai contraccolpi psichici che avevo subito, per cui, pieno di comprensione, mi lasciò andar via. Mi parve comunque che egli mi ritenesse una persona con qualche rotella fuori posto. La situazione in cui mi trovo, Maria, la vedi bene? Anche tu, sono l'ombra di me stessa ormai. Ti risulta che in passato io mi sia mai data pensiero di come me la sarei cavata al momento di andarmene da un posto qualsiasi? Forse ormai sono sulla strada della mania di persecuzione, poiché da tempo ho cominciato a vedere in ogni essere umano un possibile creditore. Sta dunque ricominciando la solita solfa. Il buon professore è davvero molto carino con me, ma verrà il giorno in cui, come se niente fosse, egli si presenterà davanti a me nei panni del creditore e così gli altri pazienti. Chissà se non mi troverò in condizioni di dover loro spillare dei quattrini. E il personale della clinica, che certo si aspetta da me delle mance principesche. No. Credimi, la bestia che si nasconde in ogni uomo, dalla quale continuamente veniamo messi in guardia, non dobbiamo temerla neanche la metà del perfido creditore che pure si annida in ogni creatura umana. A proposito, ho smesso di preoccuparmi della gente di qui che si sbranino pure per la mia eredità. Le maledizioni di quelli che si ritengono dissanguati e imbrogliati mi giungono ancora di tanto in tanto alle orecchie, ma solo per vie traverse. Alcuni di essi hanno passato le loro richieste all'associazione Riforma del Credito, la quale mi ha scritto proponendo una conciliazione amichevole, pena altrimenti l'inserimento del mio nome in una lista nera che sarà inviata a 80.000 commercianti. Per la prima volta una lettera del genere mi è sembrata di una simpatia commovente, mi viene voglia di benedirla, quell'associazione filantropica. È bello pensare che dei debiti si possano estinguere entrando semplicemente in una lista destinata a 80.000 commercianti con i quali non si ha nulla da spartire, tutta gente che comunque non verrà mai a cercarmi per avere del denaro. Poco dopo aver ricevuto quella lettera, una notte ho sognato che mi trovavo in un deserto. Gli 80.000 commercianti in carovana mi venivano vicino, si disponevano in cerchio intorno a me e con un mite sorriso mi offrivano ogni sorta di mercanzie e volevano darmi un cammello da cavalcare. Fin qui era un sogno bellissimo, ma poi mi accorsi ad un tratto che quel cammello aveva un volto umano e il suo aspetto era proprio quello del mio ultimo padrone di casa. Tale fu lo spavento che mi svegliai tutta scombussolata. Devi sapere una cosa: nell'interesse dei loro pazienti, i freudiani si occupano anche dell'interpretazione dei sogni. Questo era comunque un sogno che aveva direttamente a che fare con il mio complesso e io me lo sono annotato per raccogliere del materiale da sottoporre a Bauman. Che altro dovrei dirgli altrimenti? Per il momento il professore mi cura con i metodi che qui sono in uso, e cioè suddividendo la mia giornata tra ore di riposo, bagni, fasciature e altri analoghi supplizi di medievale memoria. È una vita da far pietà e vorrei proprio sapere se c'è qualcuno al mondo che riesce a liberarsi in questo modo dai suoi shock psichici o delle sue depressioni. A me tutto questo fa l'effetto contrario. Sto cominciando solo adesso a diventare nervosa. 3. Per disperazione ho cominciato a far conoscenza con qualcuno. Ci raccontiamo i nostri mali, ragioniamo sul trattamento, confrontiamo il numero di bagni e di impacchi assegnati a ciascuna, discettiamo sulla morte e sulla vita. Io mi sento ancora una dilettante, questo lo ammetto, ma sugli stati d'angoscia, i disturbi cardiaci di origine nervosa, le idiosincrasie, le nevrosi e le psicosi, tutti i temi che in questo ambiente sono molto alla moda e che finora erano turco per me, sto lentamente imparando a conversare con cognizione di causa. C'è qui tra noi un ragazzo di 18 anni. Essendo il figlio di un pastore protestante, ha dovuto lottare strenuamente per passare all'ateismo e in seguito a ciò è diventato psicotico. Ebbene, in una zona appartata del giardino c'è un piccolo padiglione di legno nel quale si trova, non so perché, un carillon. Il ragazzo ateo passa pomeriggi interi in quel luogo, sotto il sole cocente, e lì cammina su e giù, triste e pensoso, a capo scoperto. E sempre ritornando al padiglione, dà la carica al carillon. Io, dopo averlo osservato un paio di volte in silenzio, ho provato a spiegargli che mai e poi mai questa attività avrebbe potuto giovare alla salute dei suoi nervi. Che venisse piuttosto con me giù in paese a bere un bicchiere di vino, dato che quassù le bevande alcoliche sono vietate. Andammo dunque a bere del vino e mentre parlavamo di religione, di genitori incomprensivi, di diritti della gioventù e di altre questioni che lo riguardano da vicino, egli cominciò a sentirsi decisamente un po' meglio. Ci perdemmo nel frattempo una qualche docciatura serale e la mattina seguente il professore osservò in tono lievemente sarcastico che la mia misantropia si stava visibilmente attenuando. Abbiamo seguitato lo stesso a fare le nostre passeggiate e vedo che al ragazzo giovano molto. Poi c'è un contadino coi capelli biondi, il quale sostiene che fin da giovane è sempre stato melanconico. Sai, nei momenti di lucidità smania per un lungo viaggio, un giro del mondo che potrebbe recargli pensieri più lieti. Fra l'altro gli piacerebbe moltissimo visitare di persona, a scopo conoscitivo, gli allevamenti di maiali in California. Inoltre c'è la grassa vedova di un costruttore edile che si è ammalata di nervi perché il marito è fallito e poi si è ammazzato con un colpo di pistola. Ci ha raccontato la sua storia in tutti i dettagli già 5 o 6 volte, suscitando nell'uditorio una sincera commozione. Più di ogni altra cosa, più della morte e più del fallimento, le è rimasto impresso ciò che un giornale aveva scritto di suo marito, definito un feroce e incorreggibile speculatore che si era rovinato con le sue stesse mani. È un'accusa questa che lei non riesce proprio a digerire. E così via di seguito. Come vedi, non è un ambiente particolarmente allegro, ma per chi ci vive in mezzo è un continuo stimolo alla riflessione. A quel che sento io, quasi tutte le psicosi sarebbero guaribili innanzitutto con del denaro. Se il ribelle figlio del pastore avesse del denaro, non avrebbe bisogno né di tornare in famiglia né di passare a una nuova visione del mondo, e invece si divertirebbe come, dove e quando più gli piace. E certo guarirebbe in fretta, visto che per rianimarlo bastano 2 chiacchiere davanti a un bicchiere di vino. Il contadino potrebbe girare il mondo e dimenticare i suoi tetri pensieri grazie alla California e ai suoi portentosi allevamenti di maiali. Anche la vedova potrebbe consolarsi e passare sopra la storia del feroce e incorreggibile speculatore se solo costui le avesse lasciato in eredità un decente patrimonio. Ah, ma questo è chiaro, nessuno specialista in malattie nervose potrà mai ammetterlo. E seppure qualcuno lo ammettesse, non servirebbe a nulla. Mica si può pretendere dai medici che si mettano anche a finanziare i loro pazienti. Il mio vicino di tavola, il libero docente Lucas, grazie a Dio, è soltanto affaticato per il troppo lavoro. A me piace conversare con lui, solo che per i miei gusti è troppo progressista e trovo stravaganti le sue idee sulla capacità professionale delle donne. Sai, è uno studioso di economia politica. Di fronte a lui è seduta una studentessa di medicina che naturalmente lo asseconda in tutto, essendo il suo cavallo di battaglia il cervello femminile, che malgrado alcune differenze vale, secondo lei, quanto quello maschile. E proprio su questo tema l'altro giorno stavamo quasi per azzuffarci. La ragazza, accecata com'è, ha sostenuto con grandissima foga che le donne, in massa possibilmente, dovrebbero dedicarsi alle professioni scientifiche che offrirebbero loro prospettive migliori rispetto alle altre professioni. Il dottor Lucas ha insistito ancora più del solito sulla idoneità femminile alla vita professionale in genere, e allora io ho dichiarato con profondissima convinzione che noi donne siamo assolutamente inette a svolgere un'attività seria e che perfino quando si tratta di cucire e cucinare, i sarti e i cuochi sono più bravi di noi. E ho aggiunto che il cosiddetto lavoro intellettuale è totalmente rovinoso e atroce. Quel giorno ero di pessimo umore e ci provavo gusto a dar libero sfogo a quel che sentivo, più ancora se le mie parole mandavano in bestia qualcuno. La studentessa ha inforcato gli occhiali e mi ha guardata in faccia quasi atterrita. «Ma come? Proprio lei che è una scrittrice?» «Misericordia divina, come ha fatto a saperlo? Tu lo sai, Maria, che non tollero di sentirmi dire che sono una scrittrice. Per la sola parola ho una vera e propria idiosincrasia». Così, insorgendo come punta dalla tarantola, le ho risposto ancora una volta di no, che non sono proprio niente, però devo pur guadagnare dei soldi in qualche modo. E allora scrivo, ma solo perché non ho imparato a fare altro. Esattamente come i disoccupati che d'inverno spalano la neve. E l'ho invitata a domandare a uno di loro se per caso si identifica con questa attività e se gli piacerebbe che la gente lo seccasse vita natural durante apostrofandolo così. Ah, lei è uno spalatore. La ragazza non ha capito niente, ha detto qualcosa sulla soddisfazione garantita a tutte coloro che svolgono un'attività intellettuale. A questo punto ho azzardato il seguente commento. No, è una cosa che non conosco, però qualche volta ne ho sentito parlare. Ciò che mi salva in simili frangenti è unicamente il pensiero del guadagno. Lei allora ha lasciato perdere me, ma non il cervello femminile, e ha ribadito che anche il mio cervello ha da essere organizzato in maniera tale da consentirmi di usarlo per svolgere la mia attività. No, al contrario, ne soffre infinitamente, ho risposto io. È come se il mio cervello si contorcesse dal dolore. Questi contorcimenti li sento in effetti ogni volta che compio uno sforzo intellettuale. No, davvero non ho dubbi sulla debolezza mentale della donna e questa certezza mi deriva da una dolorosa esperienza personale. Ah, siamo sincere, mia cara signorina. Ho aggiunto poi conciliante, se i nostri cervelli valessero così tanto, né io né lei ci troveremmo qui. Ma la ragazza a questo punto si è offesa moltissimo e ha replicato vivacemente che la sua malattia nervosa è dovuta soltanto a una tara ereditaria.